Allora, eccoci in collegamento telefonico con Francesca Tricarico. Intanto ben ritrovata su queste frequenze, Francesca. Ciao Federico, ciao a tutti. Con te per parlare di Amleta e di un prossimo appuntamento. Intanto spieghiamo cos'è Amleta, Francesca. Allora, sì, Amleta è lo spettacolo, l'ultimo spettacolo teatrale che abbiamo realizzato con le detenute attrici del carcere di Rebibbia femminile della sezione alta sicurezza, e ora ne è nato anche un libricino dove ci sono, insomma, il testo dello spettacolo, le foto e un po' di racconti anche delle ragazze che hanno partecipato, un originale regalo di Natale per poter contribuire a portare avanti il nostro progetto all'interno di Rebibbia femminile. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti quante sono le detenute, le ragazze, le donne detenute coinvolte in questo progetto? In questo momento ne abbiamo 16, che sono 10 della sezione comuni e 6 della sezione alta sicurezza, però ora abbiamo iniziato una nuova selezione e pare siano oltre 20 solo le comuni, quindi stiamo cercando di capire, insomma, quanti laboratori attivare e come attivare. Ecco perché stiamo promuovendo sempre di più, insomma, il nostro teatro, perché le richieste stanno aumentando e ne siamo molto felici, perché vuol dire che questa attività, insomma, sta suscitando molto interesse all'interno del carcere e anche fuori, visti gli scontri che ci sono. Sì. Senti, questo libro verrà presentato? Sì, sabato saremo al Charlie Brown a San Lorenzo a Roma, e all'interno della manifestazione Women of Ghetto, che ringraziamo, e ci hanno invitato per raccontare la nostra esperienza teatrale all'interno del carcere di Rebibbia, quindi saremo lì intorno alle 19. Come si svilupperà l'iniziativa? Allora, noi saremo lì per raccontare la nostra esperienza, e poi ci saranno altre esperienze al femminile, DJ, musica, insomma, donne che raccontano le loro esperienze nelle varie arti. Sì. Senti, Amleta, sì. Parliamo anche un attimino dello spettacolo che poi è divenuto libro. E come è pensato, come è sviluppato lo spettacolo? Allora, l'idea è quella di utilizzare sempre all'interno del carcere le risorse che noi abbiamo e anche quelle che apparentemente sono le mancanze, per trasformarle appunto in risorse, come fa il teatro anche al di fuori delle mura del carcere. E siamo tutte donne, da me che sono la regista, a loro che sono le attrici, ci interessava il tema ci interessava l'Amleto, quindi abbiamo deciso di trasformarlo in uno spettacolo tutto al femminile, per poter indagare quelle che sono le conseguenze dell'amore, perché questo spettacolo è stato realizzato all'interno della sezione alta sicurezza e abbiamo cercato di lavorare un pochino su questo tema. Amleto diventa Amleta, Gertrude, la mamma di Amleto, ci racconta che cosa vuol dire essere la mamma di Amleto, perché deve fare delle scelte per proteggere il figlio, quindi decide di gestire gli affari di famiglia per poter proteggere questa figlia. Ofelia diventa la sorella di Amleta e ci racconta di tutti i silenzi che fa per proteggere questa sorella, che cosa vuol dire essere la figlia di, la sorella di. Quindi il tema principale è proprio questo. Tutto questo viene fatto sempre in nome di questa parola amore, ci siamo interrogati che cosa volesse dire realmente questa parola. Sì, quante volte sì. Viene abusata, un pochino anche oltraggiata, e soprattutto è stata l'occasione per poter raccontare delle cose molto più profonde per noi all'interno di quella sezione. Quindi abbiamo un po' rivalutato questa figura di Gertrude, chiedendoci perché lei decide di fare questi atti che vengono considerati così di pro-revolta. Quindi, insomma, questo è stato i temi sui quali ci siamo mossi, e soprattutto un altro tema è stato quello della verità. Amleto non è più lo stesso nel momento in cui scopre la verità, quindi il viaggio senza ritorno in questa parola verità, perché una volta saputa la verità nulla è più come prima e noi non siamo più gli stessi, non è possibile tornare indietro dalla scoperta della verità. Quindi che cosa vuol dire per Amleta scoprire la verità sulla sua famiglia? Allora Francesca, ci ripeti l'appuntamento e poi anche i vostri riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì, abbiamo una pagina Facebook, Le Donne del Muro Alto. Vi aspettiamo sabato sera alle ore 19 al Charlie Brown a San Lorenzo. Ci saremo noi, ma ci saranno tante altre esperienze interessanti all'interno di questa esperienza di Woman of Ghetto. Siamo lì, vi aspettiamo e grazie mille per averci ospitato anche voi. È sempre un piacere, quindi ci sentiremo anche per le future novità. Va bene, grazie a tutti. Ciao, ciao Federico, ciao.